aperto e adesso cazzo, adesso la modulazione è molto più forte, va evidentemente o la batteria scarica, perché stavo usando l'M600, ma ho visto che quando abbasso la portante si spegne il diodo, che si chiede perché la batteria è un po' scarica. Adesso ho messo il microfloricino al suo e va più bene, me l'accorgo, dai. Il cavolo, se va bene, è una bomba. Che vedo un po' così che è tranquillo. Vediamo un po' se c'è ancora treno. Altro re! Lui la vende cosa, la vende? Ok, allora non sei uscito oggi. Io sono uscito con mia moglie e con mio figlio, ma per un freddo. Appena è uscito il moto. No, cos'è il moto? È col tram. Ah, cazzo. Adesso la sera fa freddo e per cui si va attrezzati bene a te e tuo figlio anche. Eh sì, e adesso questi giorni ci sarà parecchio lavoro, domani devo andare al Verdi, domani, per smontare l'impianto. Ci sia un po' di lavoro questi giorni, poi a Capodanno un po' di travaglio, giorni prima sicuramente il montaggio, ci sarà un sacco di lavoro ci sarà per noi, perché dobbiamo fare quei concerti grossi, dobbiamo fare Renga e Neck a Sassari e ad Alghero, dobbiamo fare Ligabue, deve arrivare l'impianto grosso, ci sarà un bel di lavoro. E beh, non sei contento, almeno lavori, cazzo, cazzo, io mangiamo arrangio in caso mai che non sei libero, hai capito? Perché fra poco, a fine mese, si va a tagliare l'erba. A fine mese mi sa che devo lavorare. Se sei impegnato, pazienza, hai capito? Meglio lavorare tu. Cappa, meglio lavorare sì. Lo figlio, quando per un lavoro bisogna pigliarlo e che ci vuole da stare pezzo, che è meglio quando vedi bisogna pigliarlo e presta puro. E già lo credo, Gio Maria. Allora, non bisogna bisogna andare e basta. Quando vedi bisogna lavorare. Dai, che non vedi pazienza, ma quando vedi, come ti fai a non andare? E poi è lavoro che sei pagato per puro, quando per lavoro sei pagato per. Sì. Ma è assicurato o no? Sì, tutto, busta paga. A proposito, cazzo, ma me lo devo sempre caricare, sempre scaricare. Cazzo. L'importante è che l'assicurazione è un bel importante per domani, capito? Quello vuol dire un bel altro. Devo scaricarmi le buste a paga, che me ne sono dimenticato. Ma lunedì vado e me le scarico tutte. Quello si deve fare a chi sono da voi e c'è figlio. No, hai capito, siccome adesso te le mandano via online, non è più cartaccio, te le devi scaricare tu le buste a paga. Se uno è in alfabeto. Io non so qua chi si ribelle, no? Ma mi ricordo che sono in alfabeti. Oramai poco e niente sono in alfabeti. Ancora, per cui. Tutto in online è andato più bene, dai. Non è che bisogna imparare cura a me, no? Cioè, veni pommi. Io non sono così. Già, sto attento. C'è un grida. È una cosa importante. Cazzo, c'è un grida. Fino a domani, uia. Kappa. Non mi pigliano in giro, no. Vabbè, adesso lo scarico, vado. Ma so dove li scarichi? Dove li scarico io le cose? Non si chiama? Facciamo L'edicola qua, non l'edicola no, ma vai in Ravona, la cartolibreria, che fa anche queste cose, vai lì e te li passa tutti in cartaccio, anche le bollette molte volte che mi arrivano via online, me le faccio scaricare da loro, capito? Ah beh, fai bene, queste cose di sbrigarsene al tuo, o da una parte all'altra bisogna farle. KK, aspetta un attimo, mi vuoi Luca nel 20 e poi devo andare a ritirare l'apparecchio. Ehi, vai. Ehi, Giovanni, sto andando a ritirarmi l'apparecchio. Ehi,